Ciao, sono Davide, ho iniziato a usare il mio primo modem nel 1994, mi sono collegato alle BBS come CN, Marco Mix e molte altre quasi tutte le sere, alternando le BBS ad American Online per collegarmi all'internet di allora. Un giorno una mia amica dell'università mi dice: "Lo sai che anche al Forte abbiamo una BBS, se vuoi ti do il numero?" E da lì la storia è iniziata. Nel primo collegamento con Havana BBS ho scelto il nome di Yuri. Poi questo soprannome mi è rimasto per molti anni. Mi collegavo per scambiare software, documenti, foto e accedere ai numerosi forum più o meno tecnici e scambiare le prime mail, ma soprattutto per chattare con Mr. Tratt, che solo dopo ho scoperto essere una moltitudine di utenti. Dopo le iniziative, inizio a condurre i primi corsi di computer al Forte, informatica di base e internet, e lì comincio a conoscere gli occupanti del Forte, a frequentare attivamente l'area interna di Havana BBS. Per me Havana BBS è logicamente il suono del modem, i corsari dei corsi di computer, gli occupanti del forte, le feste del solstizio d'inverno, il soppalco della stanza d'Havana e lo sparaconcetti. Lo sparaconcetti mi dà la possibilità di usare il computer non solo per collegarmi alla BBS e a internet, ma anche per collegarla a una TV, un videoproiettore. In quel periodo i computer non avevano la possibilità di collegarsi alla TV, ma serviva un encoder. Negli anni successivi, ti scali da internet gratuito e tutto cambia, le BBS scompaiono di fronte alla vastità di internet e dalle BBS passo ai vari canali IRC di Freenode. Un abbraccio a tutti e ai nuovi e vecchi naviganti.